fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Continua la diretta su Ristoradio Convento, benvenuti o bentornati se eravate sintonizzati prima oppure se avete appena acceso le nostre frequenze. Io sono Master Nick, non sono solo, non sono mai solo, come bello e giusto che sia, perché questo è lo spazio per festeggiare qualcuno direttamente o anche indirettamente, come ad esempio il caso di questi due ragazzi che sono qui, come ci piace dire, per interposta persona, perché stanno partecipando a una festa, ma non sono loro i festeggiati, e essendo uno spazio questo libero aperto a tutti, ovviamente ci fa anche piacere, spesso parliamo con i festeggiati direttamente, però ci fa anche piacere ed è anche curioso parlare e festeggiare qualcuno dalle voci dei suoi amici, comunque di chi sta partecipando a questa festa e a questa serata. Buonasera, benvenuti. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Oh, eccoli qua, vai, cominciamo con le presentazioni. Ok, ciao, mi chiamo Enrico, ci siamo da Vicenza, stiamo festeggiando Alessandro che purtroppo si sposa. Purtroppo, dici. Siamo due opposti, perché per me è una bella cosa. Ah, è una bella, vedi. L'hai già passata, è già guerra. Potremmo iniziata ma mai finita. Potremmo già, come dire, far partire una puntata di forum, perché sì, sarebbero già contentissimi di avervi in questo. Allora, Enrico, per essere didascalici fino in fondo, come dire, etichettati nei confronti di Alessandro. Beh, Alessandro è un grande amico. Ah, ok, siete amici quindi. Sono nostri amici, sì. È un parente, diciamo. È suo parente. È tuo parente. È mio grande amico, diciamo. Io sono Alberto. È un parente, è un rosso. Assolutamente sì. È un grande amico. Quindi parente e amico, ok, esatto. Poi andiamo all'altro microfono. Per me è un grande amico di Bancone. Diciamo Bancone, che al bar ci troviamo sempre. Birrone. Esatto, bere gran birrone. Tuo nome? Il mio nome è Alberto, sempre d'Arzignano, Alberto. Okay. L'uomo sposato, l'uomo pro. Ah, ecco perché lui è l'uomo contro. Ah, ok, adesso facciamo un po' di pro e contro. Mai stato contro. Ah, okay. Adesso facciamo un po' di maretta. No, volevo parlare un attimo, sottolineare l'aspetto bar. Quindi mi confermi che, non so se solo a Vicenza o comunque sia, il bar, cioè insomma, l'incontro al bar funziona ancora. Cioè, nel senso, mamma mia, funzionano ancora i bar. Per sposati e non. Per il bar sposati è il nostro punto di riferimento. Ma maschile, quindi, come dire, il gruppo maschile si ritrova anche lì. Anche non, anche le ragazze. Ah, anche non. Sì, anche, no, anche le ragazze. Noi vicentini siamo dei gran bevitori. Sì, beh, però al di là del gusto del bere, che comunque ci si può esprimere anche a casa propria, per quanto sicuramente è comunque luogo di aggregazione, no? Cioè di ritrovo. Alla grande. È rimasto, era molto anni 90, anche forse prima, più anni, sì, sì. Già anni 80 era molto forte. Bravo, bravissimo. Anni 90, quindi mi confermate che anche con 20 anni di ritardo il bar rimane ancora. Si spinge. Ma qual è l'attività da bar? Cioè ancora il chiacchiericcio, magari le freccette, il biliardo, cioè, sicuramente. Gazza, sì, il calcetto. A una certa c'è il calcetto. Sì, c'è calcetto. Ah sì, biliardo, c'è il calcio balilla. Balilla, sì. Ah sì, pensavo che fossero usciti di produzione. No, no, no, esiste ancora. Siamo molto vintage. Vintage. Ah, bello, vintage mi piace. Più vin che age. Anche V, perché Vicenza, anche V, anche V. Ma calcetto a 4, per forza. Sì, 2 contro 2, perché la base è ribaltino e via. La base. Cos'è questa? È ribaltino. Cos'è il ribaltino? Ah, il rullo, lo chiamo il frullo. Esatto. Frullate voi, o no? No, non si frulla, beh, la regola base. E avete il giorno del ritrovo al bar oppure casuale? Casuale. Non c'è un giorno definito, prestabilito? Diciamo, quando parte l'embolo? Il venerdì o il sabato? Sì. Beh, chat di WhatsApp, immagino. E via. La bevuta in compagnia è sempre... E un calcetto ti porta via. Sì, bella, classico ritrovo da maschi. Mi sposto un attimo dalla parte di Alberto per chiedere se la moglie è pro o contro l'aggregazione al bar. Questo è il gran problema. Perché vedi, immagino che sia... Bisogna formarlo durante l'esperienza amorosa, questo feeling. Lei si fida, aspetta, che io vado al bar. Durante, durante o prima? Durante il feeling, prima dello sposalizio, diciamo. Ah, prima. Vedi. Quindi è comunque prima della vita di coppia. Dobbiamo conoscerci molto meglio. Quindi già da lì bisogna mettere le mani avanti. Assolutamente. Ok, domanda. Il calcetto è. Beh, calcetto bello e bar. È il nostro sport. Calcetto e bar, quindi sono fondamentali. Domanda numero 2. Senza invasione. Ci sta, ci sta. Domanda numero due, altrettanto importante: devi dare qualcosa in cambio, cioè devi cedere su un'altra cosa per avere calcetto a bar, oppure sei fortunato? Se vuoi durare a lungo durante il matrimonio, si deve cedere ovviamente a qualche vedi che quello già. Shopping tipo infatti lì volevo arrivare. Esatto. Su cosa hai dovuto cedere? Ma cioè nel senso shopping, qual è stato l'altro piatto della bilancia? Ok, bar e calcetto, ma passare del tempo insieme, che non è mai sbagliato, e anzi va benissimo assolutamente, anzi bisogna. Però soddisfarla, diciamo, nei suoi bisogni, insomma. Ecco. E lo shopping, soprattutto. Shopping. Beh, certo. Cioè, più goliardicamente. Sì, per quello però penso che faccia piacere a entrambi. Ma sicuramente. Shopping magari un po' più a lei. Ma anche no, insomma. No, ti piace accompagnare? Sì, perché no? Magari mi serve qualche scarpa, qualche calzino. Non cogli l'occasione. Sì, esatto, quella la volta che andiamo a fare shopping. Beh, no, ci sta. Enrico invece, come mai tu sei così, non dico contro perché l'abbiamo detto prima, però no. Perché non sostieni la formula del matrimonio? Sostengo benissimo, finché non c'è la materia prima. Devi fare un po' la parte, diciamo, no? Devi fare quella parte lì. Dei duri. Dei duri, dell'uomo duro, dai. Esatto. Arriverà. Ma perché sei alla ricerca e non hai ancora trovato, o sei ancora lontano dalla ricerca? Ci stiamo arrivando. Dai, piano piano. Novità, novità. Stai sondando il terreno. Sì, sondiamo. Giocando a calcetto, sì. No, esatto. Novità. Le pedine si spostano piano piano. Che non si va. Ma sei uno che ha pazienza in amore, o hai fretta di concludere? No, abbastanza pazienza. Riesci a avere pazienza? Sì, abbastanza. Diciamo piccoli passi, ma continui. Ma continui. Quindi l'importante è un piccolo. Quando arriva il momento giusto. Però nel senso, tanti non hanno la pazienza, la forza, anche l'intelligenza di aspettarlo. Nel senso che non che non ci sia intelligenza in chi non lo fa, però bisogna accorgersi quando è il momento e quando non lo è. Quando è il momento giusto, esatto. E quando no, è perché è molto difficile accorgersi di quando non lo è. È l'arte del maschio. Saper aspettare. Però ripeto, non è da tutti, perché non è facile. Non è facile. Veramente, bravo. Perché a volte ti sei un po' offuscato, se una ti piace, ovviamente, è in dubbio. Sei un po' offuscato da quella cosa che lei ti piaccia, non vuoi sbagliare, non vuoi buttare tutto a ramengo, e quindi affretti un po' i tempi. Ma neanche tirarsi indietro, diciamo. No, bisogna assolutamente sganciarsi. Sì, però ripeto, è un gioco agli scacchi. No, assolutamente un paragone perfetto agli scacchi, però bisogna rimanere anche. Brutto da dire, perché sembra poi che sia un lavoro, una sorta di strategia, e non lo è. No, però bisogna anche mantenere una certa lucidità mentale nel fare, come diciamo prima, il passo giusto al momento giusto. Bravissimo. Ok. E invece dai, parlateci anche un po' di Alessandro, al di là del grande amico e del parente. Alessandro, quando si sposerà, tra l'altro? Si sposa il 7 settembre. Dove? Ad Arzignano. Rimane tutto lì, quindi? Sì, nostro paese. Con la cugina? Sua cugina. Con tua cugina, ecco perché c'è un mezzo parentela. Diciamo che è stato molto coraggioso, anche perché lui era un tipo da bancone, come ripeto. Molto da bancone. No. E ci ha sorpreso veramente. Davvero? L'ha sudata. Veramente, l'ha sudata. Ma già l'ha sorpreso col rapporto o con la scelta del matrimonio? Col rapporto iniziale. Perché era il classico single incallito? Diciamo che gli piaceva far festa. Esatto. Che non vedeva quel tipo di impegno. Però sentimentale. Ci ha stupito, perché quando si è dichiarato è morto il Papa, vuol dire che ha fumato una sigaretta senza mai scenerare, come si dice. L'ha tenuta tutta lì. Sì. E abbiamo la foto proprio che lui si è dichiarato a Federica, che è sua cugina, che proprio l'ha. Non l'ha fumata perché era emozionatissimo e non è riuscito neanche a fare un tiro. Esatto. Bellissima sta cosa. L'emozione ci ricordiamo molto bene. E poi tra l'altro chissà perché ha scelto di parlare con una sigaretta in mano. Esatto, cioè veramente è strano. Chissà se era premeditato stato proprio distinto. Dici distinto? È il bello dell'amore. Dici distinto, no? Che non era premeditato? Assolutamente no. Bello, vedi che anche lui vi può portare delle sorprese, regalare un po' di novità. Bravo. Volete dirgli qualcosa? Beh, Ale, in bocca al lupo per la vita che farai, e ti vogliamo bene. Viva il lupo. però ti vogliamo bene Alessandro, ricordati che gli amici sono sempre qua per fare festa con te, esatto. E giocare a esatto. Quello lì volevo anche, arrivare anche per me alla fine è stato così, certo, sono sposato, certo. E tutto, però alla fine gioco calcetto comunque, sì quindi c'è anche la voglia di rimanere in contatto, esatto, di continuare a organizzare serate. Quindi mi raccomando, fai un po' di lavoro sulla cugina. Bisogna. Lavorala un po', falle capire che è importante anche il calcetto e non solo la vita coniugale. E anche il bancone. È tutto giusto, è tutto importante, quindi fai un po' da intermediario, da pacere. Dai, ce la facciamo. Da pacere. Ok, allora ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, vi auguriamo una buona fine festa, un saluto ad Alessandro che sarà in pista, sarà da qualche quello parte. Cornuto, quello qui corno. Ah, ok. Il King. Però si sta sicuramente divertendo, lo vediamo già da qui. Grazie anche a voi e buon proseguimento. Ciao. Ciao.